Questa va per le persone irriducibili. Irriducibili, refrattari del sistema. E quella che ci vanno venera. Troppi e troppe dentro, non sto buono, mi tormento. Metto al bando il vittimismo, è certo che non mi lamento. Ma accendiamo fuochi di passione e ingegno. Quando l'immobile teoria diventa movimento, organizzati azione diretta contro chi si annoia. Aspetta, gioca le tue carte come una scommessa. Caccia fuori la rabbia repressa e vomitala addosso a chi ce la riversa. Rompi le catene, sogna libertà assoluta, senza mezzi termini, passività scaduta. Ogni merdoso CIE, ogni cazzo di prigione, di frontiere fantasiose che non resti né un mattone. Non saremo libere perlomeno fino a quando non potremo amare, agire, essere crescendo. Senza autorità, né morale né politica, senza ideologie né chi ce le indica. Fermalo, gli approvalo, non posso troppe persone irriducibili che si compromettono e caroppo. Fatto una cosa, un sarro vendono, ma si assumono le conseguenze fino all'ultimo mo. Fermalo, gli approvalo, non posso troppe persone irriducibili che si compromettono e caroppo. Fatto una cosa, un sarro vendono, ma si assumono le conseguenze fino all'ultimo mo. Provaci, non puoi, son troppe le persone irriducibili che si compromettono e che dopo fatta una cosa non si pentono, ma si assumono le conseguenze fino all'ultimo. Chi la usa cadu, cervella tutto accende, chi in potenza non può capire come se vivo con una benda annanza all'occhio attorno in rea. Così la rap risse buona e motivo so parebbe non partecipare e sto schifo globale. Perché se non reagisce stai collaborando uguale. Tutto dell'ipoto che gira faccia alla durata. Pure tu sei complice e chi la fa cumannano. Tanta fredda grigia cazzo stanna tutta parte. Alcuni immaginario ha da vera e propria sbarra. Sta bonna da ballala, sta bonna da paluccia. Ma non bonna andrappola che la cattiena più una scusa. Cola del selvaggio l'individuo antisociale. Chi la con un cagno con un piano qui guennala. Chi la che se ne fotte panza con mallata. Chi la che non va a ritmo attacca tutta lata. Fermalo, gli approvalo, non può su troppe persone irriducibili che si compromettono e caroppa. Fatta una cosa senza arrependere, ma si assumono le conseguenze fino all'ultimo mo. Fermale, su provaci, non puoi, sono troppe le persone irriducibili che si compromettono e che dopo fatta una cosa non si pentono, ma si assumono le conseguenze fino all'ultimo.